Savonarola, il frate che sconvolse Firenze, prose scelte, un programma in collaborazione con Davide e Giorgio e Radio Big World. Savonarola, prose scritte nel 1850 da Pasquale Villari e rispolverate oggi per essere lette in fiorentino moderno, ma anche un po' ignorante, da me che sono sì un fiorentino moderno, ma anche molto ignorante. Capitolo 1. Ferrari. La famiglia dei Savonarola traeva la sua antica origine dalla città di Padova. Nel principio del secolo XV si trasferì a Ferrara, dove fu invitata dagli Este, che allora vi signoreggiavano. Niccolò III, amante delle lettere e delle arti, mecenate dei dotti, orgoglioso di tenere una corte fiorita di ingegni rinomati, chiamò presso di sé Michele Savonarola. Questi era un medico a quel tempo divenuto famoso nella scuola padovana, e il suo nome è passato ai posteri non solamente per i suoi molti e pregevoli scritti, ma ancora per l'affetto che portò al nipote Girolamo Savonarola, il quale più tardi riempì il mondo della sua fama. Venuto a Ferrara, Michele fu nella corte assai ben veduto, ottenne favori ed onori d'ogni sorta, visse con agiatezza e con bella fama. Poco sappiamo del suo figlio Niccolò, pare che studiasse molto la scolastica, ma niuno scritto ricorda il suo nome. Passò i suoi giorni bazzicando per la corte e consumando il patrimonio che suo padre aveva con gli studi e con la industriosa perseveranza raccolto. La sua moglie Elena, venuta dalla illustre famiglia dei Bonaccorsi di Mantova, fu però donna di elevata indole, ebbe una forza di carattere, una fermezza d'animo quasi virile. Poco raccontano di lei i cronisti, ma quel poco che raccontano a provare la grandezza del suo animo. Girolamo Savonarola nacque il giorno 21 settembre dell'anno 1452 e fu il terzogenito di 7 figli che nacquero a Niccolò ed Elena. Furono ogni bene che si dette alle armi: Bartolommeo, di cui non si conosce bene la professione, Girolamo, Marco, che col nome di Fra Maurelio vestì poi l'abito di San Marco per le mani del fratello, Alberto, che si distinse nella medicina. Delle donne, Beatrice restò sempre nella casa paterna. Chiara invece si maritò, ma rimasta vedova tornò anch'essa a vivere con la madre ed il fratello Alberto. Chi oggi osserva l'abbandono in cui trovasi la città di Ferrara, le vie solitarie ove di rado si incontra un uomo, ove l'erba cresce fra le lastre, immagina difficilmente la splendida città degli Este coi suoi 100.000 abitanti, con una corte fra le prime d'Italia, col passaggio continuo di principi, di imperatori e di papi, con le feste che parea non avessero mai fine. Pur tale essa era quando vi nacque e visse il Savonarola, il quale, essendo d'una famiglia che viveva nella corte, udiva i discorsi rivolgersi continuamente intorno a queste feste e a questi sollazzi, dai quali dovè pure ricevere le prime impressioni della sua infanzia. Non sarà dunque fuori di proposito se ci fermiamo a dire qualche parola di quella corte. Nel 1402 Niccolò III governava col titolo di marchese lo stato di Ferrara, a cui andava unita ancora la ricca e fertile provincia modanese. Egli dovette per 16 anni combattere di continuo la nobiltà dei castelli intorno e, dopo averla con ogni arte di guerra, d'astuzia e di tradimenti sottomessa, si trovò assoluto signore e diedesi con la pace a rendere illustre la sua corte. Fece innalzare la Torre del Duomo, i palazzi di Bel Riguardo e Santa Maria Belfiore ed altri splendidi edifici. Abbiamo visto che chiamò da Padova Michele Savonarola e così fece di molti altri, fra i quali fu il celebre erudito Guarino Veronese, a cui affidò l'educazione dei suoi due figli naturali, Lionello e Borzo. Questi furono poi legittimati e per espressa volontà del padre gli successero nel governo, a preferenza di Ercole, figliolo legittimo ma di età troppo tenera. Lionello dunque successe a Niccolò l'anno 1441 e Borzo successe a Lionello l'anno 1450. Essi governarono in tempi assai difficili. L'estinzione della casa Visconti, la sollevazione di Milano, la gelosia dei veneziani e degli stati vicini avevano per tutto acceso la guerra, onde parea quasi impossibile che gli Este non vi fossero dagli uni o dagli altri trascinati. Pure seppero non solamente tenersene fuori, ma composero in Ferrara tante discordie fra principi e stati avversi che le acquistarono il nome di Terra della Pace. Ma ciò che più di tutto fece crescere la fama degli Este fu la magnificenza della corte e il titolo di mecenati che essi acquistarono prima ad ogni altro principe italiano. Lionello era infatti amico di molti dotti, il Guarino, il Valla, il Trapezunzio ed altri furono da lui protetti. Egli aveva scritto orazioni latine, sonetti in volgare, dato principio ai famosi musei degli Este, messo in fiore l'università, fondato l'ospedale di Sant'Anna e molti pubblici edifici. Tenne la corte in un lusso sfolgorante e le feste che diede in occasione delle sue nozze furono materia di discorso in tutta Italia. Ma egli non regnò che 9 anni e alla sua morte, avvenuta nel 1450, gli successe Borso, che fece assai presto dimenticare la munificenza e la magnificenza del fratello. Il marchese Borso era un uomo della stampa dei Medici. A lui non mancavano buone qualità, ma nascevano tutte dal bisogno di primeggiare o far parlare di sé. Quando la giustizia non era a suo danno, egli l'amava e facevala severamente osservare, ma assai più della giustizia amava il nome di giusto, che presso tutti s'era acquistato. Egli divise equamente fra i cittadini il peso delle imposte, pigliò a suo carico le spese dell'università, introdusse a Ferrara la stampa, allora appena sul nascere, fondò la Certosa, fortificò di bastioni la città dalla parte del Po ed allargò il suo stato. Le discordie nate in Italia ai tempi di Lionello crebbero ancora nei suoi ed egli visse in tempi più difficili, pure seppe tenersi neutrale e fu arbitro di quasi tutte le discordie occorse al suo tempo fra gli stati italiani. Il suo nome andò tanto oltre che gli indiani inviarongli ricchi donativi credendolo il re d'Italia. Ora, se noi dicessimo che questo gran nome gli veniva principalmente dal lusso della corte e dalle feste con cui sollazzava di continuo il popolo ferrarese, parrebbe strano e sarebbe pure la verità. La sua rinomata giustizia non aveva mai potuto sostenere una prova difficile, nella sua vita passò senza qualche grave accusa. La vantata prudenza con la quale seppe mantenersi in pace fra vicini che guerreggiavano si riduceva in fondo, per chi bene l'avesse considerata, all'arte di non sposare mai la causa d'alcuno e tenersi pronto per unirsi sempre al più forte. Ma il marchese Borso apriva liberalmente la sua casa a tutti, aveva una rara collezione di codici ed antichità, vestiva sempre di broccato d'oro, nella sua corte sfoggiavano le più ricche stoffe d'Italia, aveva i più bei falconi, cani e cavalli che si fossero mai visti, gli stessi buffoni della sua corte erano divenuti famosi e le descrizioni delle feste che gli dava correvano stampate da un capo all'altro d'Italia. Quando nel 1452 l'imperatore Federico III scese in Italia con un seguito di 2000 uomini per andare in Roma a prendere la corona imperiale, passò per Ferrara e Borso gli andò incontro con la nobiltà e col clero, lo accolse sotto un ricco baldacchino e per 10 giorni continui tenne la città intera fra giostre, conviti, musica e danza. Nel ritornare da Roma l'imperatore si era deciso di dare a Borso il titolo di duca. Le feste perciò furono riprese con più fervore. Fu eretto nella piazza un sontuoso palco sul quale sedeva l'imperatore col manto e la corona imperiale ricchi per 150.000 fiorini di gioie. Borso mosse dal suo palazzo vestito di broccato d'oro, carico di gioie, accompagnato dalla nobiltà ferrarese, fra lo schiamazzo del popolo che andava gridando «Duca! Duca! Viva il Duca Borso!». Giunto innanzi all'imperatore ed inginocchiatosi ai suoi piedi, ne ricevette il titolo desiderato. Ma le feste a cui per la sua età potette assistere il Savonarola furono ancora più magnifiche ed ebbero una ragione assai più notevole. Allora era un continuo discorrere della caduta di Costantinopoli, 1453, della potenza sempre crescente del turco, del pericolo che esso minacciava a tutta la cristianità. Ognuno voleva fare una crociata, ma per la indifferenza e la fiacchezza universale niuno si muoveva. Finalmente nell'anno 1458 Enea Silvio Piccolomini, salito al pontificato col titolo di Pio II, ordinò un concilio a Mantova, nel quale egli doveva in persona incitare alla guerra santa i principi cristiani. 10 cardinali, 60 vescovi, un gran numero di principi secolari lo accompagnavano con indicibile pompa nel 1459 per le città italiane, che gareggiavano a sfoggiare di lusso nel riceverlo e rendergli onore. A Firenze il Santo Padre entrò sulle spalle di Galeazzo Maria Sforza e dei signori Malatesta, Manfredi ed Ordelaffi. La Repubblica gli fece quelle feste con cui onorava solamente l'imperatore o altri gran principi secolari. A Ferrara il Papa entrava sotto un baldacchino di broccato. Le vie per cui passava erano coperte di drappi e sparse di fiori. Dalle finestre pendevano arazzi ricchissimi. La città era piena di musica e di canto. Nel Duomo il Guarino lesse una lunga orazione latina tutta piena d'erudizione e di lodi al Santo Padre, il quale per 8 giorni continui fu tenuto in festa. Così procedette oltre per la sua via fino a Mantova, ove giunse il 27 maggio 59. Ivi fece prova della sua meravigliosa facondia latina e mosse il pianto degli uditori nel descrivere la miseria dei cristiani di Costantinopoli. Parlò il dottissimo Francesco Filelfo, parlò anche in latino Ippolita, figlia di Francesco Sforza, e finalmente finalmente gli ambasciatori greci mossero una più vera e profonda pietà col descrivere le sventure della loro patria, la feroce crudeltà dei turchi. Tutti i principi offerirono d'aiuto d'uomini e danaro, ed il duca Borso promise la somma per lui esorbitante di 300.000 fiorini. Ben presto però si vide che egli era stato più astuto che volenteroso. Questi grandi apparecchi non si facevano che in parole, e bastò il pazzo tentativo di Renato d'Angiò, il quale con pochi francesi voleva andare alla conquista del regno di Napoli, per mandare a vuoto tutta l'impresa di Oriente. L'anno 1460 il Papa ritornava a Ferrara senza aver nulla concluso. Non di meno le feste furono maggiori di prima. Il duca venne a incontrarlo nel Po sopra un magnifico Bucintoro, circondato per ogni dove da una miriade di barchette ornate a festa con bandiere e con musica, le quali occupavano tutta la gran larghezza del fiume e procedevano lentamente col Bucintoro. Sulle rive sparse di fiori attendeva una moltitudine di giovanetti vestiti di bianco, con ghirlande in mano, e nel posto dove doveva discendere il Santo Padre gli faceva corona tutte le statue degli dei pagani. La vita di Borso procede sempre allo stesso modo, e tali continuarono ad essere i fasti del popolo ferrarese. Tali erano purtroppo anche quelli del resto d'Italia: indifferenza e corruzione per tutto, il paganesimo che invadeva da ogni lato ed il popolo che si abbandonava ad una gioia lasciva e spensierata. Il 27 maggio 1471 moriva il duca, e le sue ceneri erano ancora calde quando Niccolò, figlio di Leonello, ed Ercole I, il figlio legittimo di Niccolò III, pervenuto ora all'età maggiore, si contrastarono fieramente la successione, tentando la fortuna dell'armi che fu favorevole ad Ercole. Il 20 agosto egli entrava trionfante in Ferrara, veniva ad alta voce acclamato signore del popolo, mentre che i seguaci di Niccolò erano scannati per le vie, e quelli che potevano sfuggire venivano come contumaci condannati a morte. Le feste e le danze riprendevano poi il loro usato giro, e l'indomani il popolo sembrava aver dimenticato il sangue che s'era versato il giorno innanzi.